voce. Valerio Binasco legge Il compagno di Cesare Pavese, 15ª puntata. Presero a letto e in mezz'ora buttarono in aria la casa. La Marina mi faceva degli occhi così. Io credevo che fosse per la storia di Scarpa e pensavo a Gina con gran voglia di ridere. Meno male, dicevo. Poi scendemmo. La porta di Carletto era chiusa. Pensai, quel merlo di Carletto se la dorme. Chissà che spavento. Scapperanno in campagna. Ero tanto contento che Scarpa non fosse più a Roma. Che l'automobile arrivò sulla lungara e scendemmo e mi misero dentro e non avevo più dato un'occhiata alla strada o alle nuvole. Ci pensai troppo tardi. Mi ricordai poi nella cella che sul ponte avevo visto una ragazza spettinata. Ci doveva essere vento in quell'ora vuota. Dalla cella vedevo soltanto dei muri e il sereno. Quando le guardie mi lasciarono tranquillo nella cella mi doleva la bocca. Mi accorsi allora che per strada, negli uffici, sui registri, non avevo mai smesso la faccia da ridere, la smorfia di chi non gli succede niente di nuovo. Mi aspettavo dei pugni, del sangue, qualcosa. E invece tutti mi guardavano annoiati come fosse al caffè. L'ultimo venne che ero in cella, aprì la spia e mi chiamò. È la volta, pensai, me le ficca. Mi diede invece la gavetta, l'asciugamano, le posate, tutto il resto. Fui così stupido da chiedergli perché mi avevano preso. Quello nemmeno mi rispose e chiuse il buco. Mi passò la giornata così, senza storie. C'era la branda e mi distesi sulla branda. Stando disteso vedevo un po' di cielo. La finestra era tutta inferiata e listelli di vetro per storto che non lasciavano guardare nel cortile. Non si sta mica male, pensavo. Basterebbe sapere se dura. Ogni tanto qualcuno picchiava alla spia. C'era il pane, la spesa, la conta, il bidone. Purché duri, dicevo. Si poteva perfino comprarsi delle cicche. Mi era rimasta una paura dal mattino, non aver tempo di pensare alle risposte, non poter regolarmi su quel che sapevano. Se hanno preso anche Pippo, dicevo, è finita. Poi dicevo, ma se mi hanno arrestato vuol dire che sanno. Non è star chiusi la prigione, è l'incertezza. Camminavo su e giù per la cella, mi venivano in mente i compagni, il maggiore, i discorsi di Scarpa. Meno male che come essere morti, dicevo, quel matto. Poi tornavo a distendermi e ci pensavo da principio. Dunque Scarpa è scappato, dicevo, sì o no? Oltre Giuseppe, chi sapeva dove stavo? Mi venne in mente quella notte che pioveva e l'oste sbronzo, quella faccia da capra. Ma se mai conosceva Carletto e non me. Il maggiore? Ma quello non si metteva di certo nei rischi. Mi venne fredda quest'idea che la colpa fosse mia. Se qualcuno di loro ha parlato e hanno preso i compagni, non mi resta che buttarmi nel Po. Pensare al Po mi mise in mente che una volta c'ero andato per buttarmici davvero, non più tardi di marzo, per via di quell'altra. Me la rividi nella strada quella sera del Plaza, che parlava di Amelio, irritata e cattiva. Ci pensai d'improvviso che anche Amelio era dentro. Questa volta pensai, siamo pace. Ero disteso sulla branda, chiusi gli occhi e dissi: Amelio. Verso sera batterono i ferri. Cominciarono in celle lontane. Un martellio che sembrava una canzone. Si sentiva una sbarra picchiare le inferriate, come fosse ammattita, cantare, picchiare, e rumori di chiavi e di porte. Si avvicinò, si aprì la porta. Entrò una guardia e mentre un'altra mi diceva buonasera, quella andò alla finestra e picchiò alle sbarre, per lungo e per largo. Poi se ne andarono, chiudendo con un colpo. Capii che era notte. Che ci fosse qualcuno che pensasse a scappare mi pareva impossibile. Quella era come la campana della chiesa. Ci facevano un po' di baldoria per mandarci a dormire contenti. Rimasi in piedi alla finestra a fumar l'ultima e attraverso i listelli guardavo il sereno. Da quella fetta mi pareva di conoscere tutta Roma. Era l'ora che uscivo e andavo nel centro, l'ora che tutto s'accendeva, che la gente cenava e si ballava, si beveva, si suonava la chitarra. Chissà Gina, Luciano, Carletto e le donne, se si erano trovati. Purché Gina non fosse imprudente, non le avevo nemmeno potuto dir grazie. Ci pensai poco quella sera, ero ancora tutto sbalordito. Poi s'accese la luce al soffitto, una luce cattiva, di quelle crude, da ospedale. Una voce batté allo spioncino chiuso e mi disse: si dorme. Se dormii, non lo so. Mi aspettavo venissero per farmi parlare. Pensavo sempre che di notte ci picchiassero e stavo attento se qualcosa succedeva. Pensavo alle storie di Germania e di Spagna, dicevo: coi rossi non hanno rispetto. Un bel momento mi svegliai, toccavan l'uscio. Non feci a tempo che la guardia già richiudeva. Era la ronda. Venne il mattino e a poco si schiarirono i listelli. Tutta la notte mi ero mosso sulla branda, mi sentivo le anche scassate, la testa pesante, ma non avevo aperto gli occhi che già pensavo alle risposte. Suonò una campana per farci svegliare. Venne il caffè, il bidone d'acqua, poi passarono a battere i ferri. Qualcuno mi disse: c'è un pacco per voi. Venne il pacco. Era roba di casa e sul foglio il mio nome e cognome di mano di Gina. Sono cose che fanno coraggio, era come parlarle. Fumai la prima sigaretta in allegria, camminai. Mentre andavo e venivo, cinque in su e cinque in giù, mi venne in mente che qualcuno non poteva camminare e l'avevano portato in prigione in barella. Anche questo mi diede coraggio e guardavo le sbarre. Se ci sono è perché l'ho voluto, pensai. Vennero a dirmi che potevo andare all'aria una mezz'ora. Scesi le scale e passai i corridoi. Mi portarono sopra un cemento nel cortile e mi chiusero a chiave. Si vedeva una fetta di cielo alto, alto. Così passò il secondo giorno e niente fu. Poi la notte e scopersi le cimici. Poi di nuovo il mattino e di nuovo il passeggio. Pensavo sempre alle risposte e non sapevo. Poi la notte mi vennero in mente quei libri del biondo. Che sia tutto per questo, sarebbe da matti. Mi arrivò un altro pacco. Mi vennero a chiedere di scrivere a casa. Non ho casa. Scrivete a un amico. Faccio conto di andarmene. Non avete una donna? Si scrive alle donne? Potete far domandina al direttore. Faccio conto di andarmene. Tutte le sere l'indomani era quel giorno. C'erano cinque cancelli fra me e la lungara. Toccava a loro aprirli tutti, uno per uno. Mi immaginavo che si fossero sbagliati, che mi avessero preso per un altro, per Carletto magari. Un bel momento mi chiamavano e mi aprivano i cancelli. Cominciavo a fissarmi su sciocchezze così: un negozio di frutta, un bicchiere di birra. Cosa avrei dato per avere un lavoraccio, anche sporco, il facchino magari, gli altiforni di Cogne, il marinaio che gli tocca la burrasca. Poter muovermi, dire la mia, non pensare sempre alle domande e alle risposte. Mi ricordavo la ragazza spettinata sul ponte. Mi inventavo che cosa facesse in quell'ora, che cosa pensava, di dove veniva. Mi mettevo su un passaggio, il Flaminio, il Tritone, e vedevo la gente, conoscevo le facce. Mi pareva di aver sempre sprecato i momenti più belli. Proprio a Roma doveva toccarmi, dicevo. Facevo conto di essere come un ammalato, di aspettare il dottore, di non poter più levarmi dalla baranda. Suonavo muovendo le dita a memoria, inventavo dei pezzi. Certi giorni pensavo di essere solo un ragazzo, uno scemo, di aver fatto soltanto sciocchezze e che tutti ridessero. Ma c'era Gina che di sicuro non rideva e pensavo al negozio, a Solino, ai cantieri del ponte. Sono un povero scemo, dicevo. Era meglio suonare la chitarra e restar dov'ero. Eppure il giorno che mi presero e portarono in questura diedi prima un'occhiata alla cella. Ma aveva preso un batticuore da non dire. Più che paura era una voglia di star solo e non vederli. Traversammo i cancelli, ci fermammo al registro. Dalle finestre si vedevano le piante sopra il Tevere. Uscendo mi tennero il braccio. Io mi accorsi di fare quella faccia svogliata. In questura aspettavano dietro un tavolo e parlarono loro. Prima il nome e cognome, mio padre, la classe, se avevo condanne. Poi di dove venivo, che cosa facevo e da quando ero a Roma. E poi dov'è che passavo la sera e che cos'era quel libro. Me lo diedero. Il libro del biondo. Anche Gina, pensai. Stavo per dire che era roba del negozio, ma mi tenni. Feci passare qualche foglio e leggevo e pensavo che Gina non poteva essere dentro, che mi aveva mandato quei pacchi, che lei non c'entrava. Carogne, pensavo. Da lei sono stati. Da dove viene? Dissi piano. Devi dircelo tu. Io pensavo a Carletto e alla gobba. L'avrei preso a calci. Io non leggo nei libri, dissi. Leggo appena al giornale. Uno disse: al teatro ci vai? Quando capita, dissi. La conosci Giulianella? Conosco Carletto, uno gobbo. Ho suonato con lui che cantava. Quando e dove? Allora parlai di Lubrani. Parlai di Torino. Ci diedi dentro finché dissero di smetterla. Lo conosci il maggiore? Il maggiore? Dissi che andavo all'Argentina per cenare con Carletto e sua moglie. Portavo a volte la chitarra, lavoravo di giorno e la sera cenavo. Di molta gente non sapevo il nome. Quel maggiore era un tale che viveva in platea. Parla chiaro, mi dissero. Com'è che sei venuto a Roma? Sei ciclista o che cosa? Feci una faccia e li guardai. Non ci stavi più bene a Torino? Li guardai. Chi ti ha dato quel libro? Non è mio. Te l'ha dato il maggiore? Non sapevo di averlo. Allora un tale mi pigliò per una spalla. Mi arrivò un pugno sull'orecchio. Quello seduto continuava. Lo sapevi? Mai visto, risposi guardandolo. Sentivo sempre quella mano sulla spalla. L'altro mi disse e aprì un cassetto. C'è una lettera. Me la diede. Era Gina. Puoi leggere, disse. Lei non c'entra, gli dissi. Gina scriveva che sperava di vedermi presto presto se avevo bisogno di roba e di soldi. Nella bottega andava bene e pregassi il Signore. Ti penso sempre, concludeva. Sentivo sempre quella mano sulla spalla. Uno mi disse, vuoi fumare? Noi vogliamo sapere, riprese quell'altro, quel che facevano il maggiore quella gente. Non ti hanno mai detto di trovarti con loro, di portare dei pacchi, di andare in campagna? Questi tuoi amici sono tutti sovversivi, lo sapevi? No. Di che cosa parlavi con loro? Di sciocchezze. Eppure Giulianella ti accusa di averli aiutati. Sei iscritto al partito fascista? No. Si mise a ridere. Quella mano mi strinse la spalla. Questa è la prima verità che hai detto. Ti abbiamo preso appena a tempo. Fottevi soltanto Giulianella o anche l'altra? Mi arrivò un altro pugno. Perché Giulianella la fotteva anche il maggiore, non lo sai? Te l'ha pagato Giulianella al viaggio a Roma? Dissi, Giulianella cosa c'entra? Lo sai tu? Quando si furono sfogati scrissero tutto sopra un foglio. Me lo lessero e dissero firma. Gli diedi ancora un'altra occhiata. C'era soltanto dove avevo conosciuto questo e quello. Dei compagni, nessuno. Firmai. Tornammo in tassi alla Lungara. Mi ero giurato, per la strada guardo Roma e la gente e i caffè. Ma anche stavolta ci pensai soltanto in cella. Non han preso i compagni, dicevo. Che bestie. Scrissi a Gina che stesse tranquilla perché le cose s'aggiustavano. Che poveretti, i nostri amici non ci avevano più colpa di me e consolasse Dorina, che non si può tenere dentro chi è innocente. La sera battevano i ferri e pensavo a quei quattro. Chissà se anche loro dicevano vanno da Pablo. Quando il frastuono cominciava mi mettevo all'inferriata e ascoltavo gli squilli passare di cella e dicevo ora tocca Carletto, ora tocca Giulianella. Non potevo pensare che anche lei fosse passata in questura, che qualcuno l'avesse battuta. Figurarsi se fosse per scarpa, dicevo. Mi ricordai quella volta di Luciano e lo capii. Non sono cose che si dicono a nessuno. Poveretto Luciano, tornarci in quel modo. Capivo adesso che cos'è stare in prigione. Pensi sempre a qualcosa e non osi pensarlo. Le risposte le hai date, le botte le hai prese. Cos'altro ti tengono a fare? Mattino e sera mi mettevo all'inferriata. Era tornato in mente Milo e quelle corse sopra i camion. Girare adesso sulle strade, fermarsi dovunque, doveva essere bello. Di tutto quanto il mondo libero godevo di quel pezzetto di sereno. Certe volte pensavo, lasciatemi uscire, faccio un giro sul Tevere e ritorno, lo giuro. Dicevo sul serio. Ero dentro da un mese. Come siamo, pensavo. So che i compagni sono fuori e non mi basta. Stavo peggio la sera. La mattina dicevo, sarà per quest'oggi. E invece, successe di sera. Nel battere i ferri. Entrano le guardie, fanno la loro suonatina. Poi il capo mi dice, prendete la roba. Non capivo. Prendetemi, dice. Fate la roba e si esce fuori, a libertà. Al registro mi diedero a un tale, in borghese, una faccia da Napoli, che mi disse, venite. Andammo in questura in tassì. Quando uscii solo sulla piazza, era ancor giorno. Camminavo schivando la gente, sentivo parlare. Guardavo quell'aria dorata di vetro, camminavo e rilessi i fogli. Entro due giorni presentarmi alla questura di Torino, il biglietto pagato, sorveglianza speciale. Non potevo star fuori dopo il tramonto. Allora andai col mio fagotto all'osteria a ber la birra. Quando uscii mi chiamarono indietro, dovevo pagare. Sul ponte Milvio mi fermai guardando i colli. Era sempre la stessa anche a Roma. L'acqua correva piano piano sotto il cielo. Da quella parte che pareva sassi si vedevano i travi del ponte in cantiere e ogni cosa era limpida, calda. A Torino si leva la nebbia a quest'ora, dicevo, tra la collina e la montagna. Piano piano mi mossi. Sapevo bene che un piacere dura poco. Entrai nel negozio dicendo, padrona, vidi Gina a guardarmi, non aveva la tuta. Mi corse incontro come fosse una bambina. Quando fu buio non potevo più restare, allora andammo a casa insieme e la Marina mi chiamò dalla finestra. Sulla scala trovammo frenetiche Dorina e la vecchia e cenammo con loro. Dissi a Dorina tutto quanto ne sapevo e lei, che aveva gli occhi pesti, non piangeva. Continuava a ripetere che Carletto doveva uscir fuori. Vedrai che la gobba gli porta fortuna, diceva Marina, gliel'ha portata già una volta. Ma insomma, cosa facevano? Dissi. Non fu possibile saperlo. Dorina era tanto convinta che Carletto doveva uscir fuori che negava persino che vedesse il maggiore. Gina mi disse nella notte che a Carletto gli avevano trovato i giornali e che il maggiore era saltato dal balcone in camiciola. Te l'ha detto Fabrizio? Lei rise. Me l'ha detto Giuseppe. È venuto a cercarti. Sanno tutto i compagni. Da due giorni sapeva perfino che se uscivo mi avrebbero dato quel foglio. Ma non mi posso rassegnare, disse. Devi davvero andare a casa? Venne il mattino e la Marina ci fece l'ultimo caffè. Si ricordò di quell'immagine e mi disse in presenza di Gina, ti ha fatto la grazia la Madonna, sei stato malato. Che grazia? Fa Gina. La Marina levò gli occhi al cielo. Tu taci, le disse, anche tu ne hai bisogno. Così facemmo la valigia e Dorina ci vide partire. Che pena, mi disse, vederti andar solo. Dispiace anche a me, ma son sicuro che vi trovo al mascherino quest'altro anno. Non tutti, lei disse. Giulianella la paga. Io e Gina tornammo al negozio. Partivo la sera. Mentre fumavo sulla porta vedo Pippo scappar via. Dove va? Verrà Giuseppe, disse lei. Vuole parlarti. Lo disse così, come niente. Sei matta. Allora Gina alzò le spalle. È il tuo lavoro. Una volta pensavi diverso. È un destino così, disse lei. Poi quando Pippo fu tornato andai con lei nell'osteria. Vuoi venire a Torino? Le dissi. Mi guardò con quegli occhi chinati. Ci vengo. Mangiammo insieme e discutemmo del negozio. Fatti aiutare da Giuseppe. Vendete e tu vieni a Torino. Giuseppe arrivò verso l'una. Della Lungara non parlò granché. Si temeva, mi disse, che ti avessero visto. Fosse sempre così. Poi mi disse chi c'era a Torino. Tu vedili, disse. Noi intanto mandiamo qualcuno. Non bisogna fidarsi. Gli parlai del negozio, lui disse, va bene. Una cosa voleva sapere, se col maggiore erano caduti tutti i suoi. Dietro lui c'è qualcuno, mi disse. Interessa tenere i contatti. Non concludono mica. Non si sa, disse lui, sono forze. Mi disse poi che Gino Scarpa era in Toscana e se ne andò. Quel giorno Gina volle chiudere il negozio, Misi via la chitarra, ma prima suonai. Gina ascoltò e mi disse: andiamo in quella bettola. Voleva dire quella strada in campagna dove eravamo andati insieme con gli altri la prima volta, quella sera all'aperto. La presi in canna e traversammo Roma. Mi faceva un effetto curioso vedere le strade. Tra la prigione e che partivo quella sera mi sembrava una nuova città, la più bella del mondo, dove la gente non capisce che è contenta. Come quando uno pensa che è stato bambino e dice: l'avessi saputo, potevo giocare. Ma se qualcuno ti dicesse puoi giocare, non sapresti nemmeno com'è che si comincia. Ero già un altro, staccato e contento. Guardavo le bettole, le piante nere, i palazzi, le pietre vecchie e quelle nuove, e capivo che un sole così non si vede due volte. Quanta frutta vendevano a Roma, quei verdi, quei rossi, quei gialli sui banchi. Erano loro il colore del sole. Mi viene in mente che a Torino avrei mangiato della frutta e sentito il sapore di Roma. Così. Arrivammo sul posto. Gina mi disse: quante cose vorrei fare. Sai com'è, dissi allora, non si ha mai tempo. È come in cella. Uno dice: quando esco mi voglio sfogare, voglio fare le cose più matte. Ma quando esci fuori e puoi tutto, fai sempre soltanto le cose di prima. Vorrei che fosse il primo giorno, quando dovevi ancor venire. Domani sarà come dici. Che spavento. Tu a Roma sei venuto per caso. Non è questo che conta, le cose succedono. Basta volere veramente quel che fai. Eravamo seduti all'aperto nel sole. Sono poche le cose che voglio, le dissi. Meno ancora di prima. Scarpa diceva che in prigione è come i morti, disse lei. Fa paura pensarci. Non devi pensarci. Poi le dissi: ci sono anche i morti. Tutto sta a tener duro e sapere il perché. Restammo un pezzo in quella bettola bevendo. Gina giocava con la griglia e guardava nel sole. Gli uccelli volavano bassi. Venne un gatto e saltò sopra il tavolo. Anche Gina se ne stava aggobbita e raccolta. Parlammo ancora di Torino e della casa. Lei mi parlò di Carlottina e di mia madre. Le vedrò quando vengo a Torino, diceva. Tornammo a piedi verso sera. C'era un sole d'oro fra le pietre e le piante. Era l'ora che in carcere battono i ferri. Raccontai a Gina di Amelio. Lei stette a sentire, tenendomi il braccio. Verrà a Roma, le dissi. Verrà anche lui, come gli altri. Poi ci lasciammo sulla porta del negozio. Era già notte. Valerio Binasco ha letto Il compagno di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.